America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero. Beh, ieri notte, dopo le ultime eliminatorie, abbiamo i finalisti del Super Bowl, il più grande torneo del football americano, i Panthers della Carolina contro i Broncos di Denver. Sud contro West, dunque, è partita per il Golden Match, perché siamo al 50° torneo, oltretutto a San Francisco, nel Golden State. Sarà domenica 7 febbraio. Pensate, uno spot costerà 5 milioni di dollari, a metà tempo spettacoli di Beyoncé, di Mars, ma ne parleremo a fondo qui all'America 24. Sempre ieri la storica bufera di neve a New York, pensate, la più forte nevicata dal 1869, è stata archiviata nel modo migliore dai ragazzini che si buttavano giù per le colline di Central Park in slitta in una magnifica giornata di sole. Sabato invece, indiscrezione importante, Michael Bloomberg potrebbe correre da indipendente per le presidenziali 2016, investendo $1 miliardo del suo patrimonio. Aspetta l'esito delle prime tornate elettorali, molto confuse, devo dire, per decidere. Let's go out and win the caucus. Thank you all and God bless you. What the hell is going on? Thank you and God bless you. Copertina della settimana, non posso che dedicarla alle elezioni americane, perché siamo all'ultima corsa prima del caucus dell'Iowa, che si terrà il 1° di febbraio. Subito dopo il caucus dell'Iowa ci saranno le primarie del New Hampshire. Dunque vi do un po' un quadro di dove siamo, perché l'ultimissimo sondaggio dell'Horace College, che è stato rilanciato da The Hill, conferma un testa a testa fra Donald Trump e Ted Cruz per i caucus in Iowa. Il grande costruttore newyorkese ha il 26% delle intenzioni di voto contro il 25% per il senatore del Texas. Gli altri candidati, Marco Rubio, Chris Christie, eccetera, sono più lontani. Rubio, pensate, soltanto al 13%, Jeb Bush, che tutti pensavano sarebbe stato il candidato di punta, invece ha il 3-4%. Veniamo ai democratici, dove c'è un altro problema per quello che dovrebbe essere il leader of the pack, Hillary Clinton. Hillary Clinton ha 9 punti di vantaggio su Bernie Sanders in Iowa, e questo secondo l'ultimo sondaggio del Monmouth Board, però si trova in difficoltà invece in New Hampshire, dove Bernie Sanders conduce addirittura col 50% dei sondaggi contro il 35% di Hillary Clinton. Devo dire, sarebbe molto importante per Hillary vincere in Iowa, ma Bernie Sanders, un candidato della sinistra del Partito Democratico, un senatore del Vermont, quindi della East Coast, ha condotto una campagna straordinariamente spontanea, direi è l'equivalente di Trump per un liberal, cioè dice quello che gli passa per la testa, è straordinariamente aggressivo nei confronti dei poteri forti che dominano, secondo lui, il paese, e porta un messaggio populista di inclusione, un messaggio inclusivo per tutti gli americani. Comunque, da un punto di vista di preferenze per l'Iowa, il vantaggio della Clinton si traduce nel 48% contro il 39% di Sanders. Invece Martin O'Malley, che è il terzo candidato, ex governatore del Maryland, ha soltanto il 7% e di fatto fuori corsa. Su base nazionale, la Clinton ha il 47% delle preferenze contro il 42,3% di Sanders. Ecco, nessuno si aspettava che Sanders potesse fare così bene. Chissà che non ci sia qualche sorpresa. Devo dire, Sanders lo meriterebbe, perché ha tenuto duro, è stato tenace, un uomo intelligente e un uomo di grande esperienza, ed è riuscito a dare molta fiducia alla base del Partito Democratico e a tirarsi dietro una gran quantità di giovani. I'm Donald Trump and I approve this message. The politicians can pretend it's something else, but Donald Trump calls it radical Islamic terrorism. Vi dicevo che in questa battaglia dominano gli spot. Questo è un esempio di uno spot, devo dire, molto provocatorio. Sentiamo. That's why he's calling for a temporary shutdown of Muslims entering the United States until we can figure out what's going on. Non poteva che essere Donald Trump, uno spot contro i musulmani. Per chiudere, sentiamo un altro spot che è stato messo in onda appena l'altro giorno, il più recente di Trump, e qui parla Ivanka Trump, la figlia di Donald, il grande costruttore, tra l'altro uno spot radio, non televisivo. Hello, I'm Ivanka Trump. When I was a young girl, my father... Quando ero una ragazzina, dice Ivanka, mio padre, Donald Trump, mi ha insegnato che avrei potuto fare qualunque cosa avessi voluto con la determinazione e con il duro lavoro. Mi considero una donna fortunata perché ho imparato tutto dal migliore. Ecco, un messaggio multiplo questo, perché c'è la famiglia, c'è soprattutto il voto femminile, perché Donald Trump ha avuto qualche problema con le donne, ma c'è soprattutto il messaggio di sempre, e cioè che lui, rispetto agli altri, è certamente il migliore. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!